Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo molto, quasi esclusivamente, di Italia oggi, su vari fronti. In primo luogo quello della crescita deludente dell'economia. Vi è tornato oggi il Presidente del Consiglio, in realtà poi ieri sera, nel corso del programma Porta a Porta, il Ministro Padoan, come oggi avete immagino letto su tutti i giornali, ha annunciato che per l'IRPEF si rimanda tutto al 2018. Renzi oggi era a Milano per firmare anche il patto, diciamo, per il patto su Milano e i 2 miliardi e mezzo complessivi di investimenti, in realtà poi ne parleremo, sono scorporati in vari interventi. E poi però, al di là delle valutazioni delle agenzie di rating sul referendum, vince il sì, vince il no, io sono sempre dell'idea che le agenzie di rating dovrebbero occuparsi dei debiti e non di valutazioni politiche, anche perché è molto aleatorio quello che dicono. Detto ciò, hanno ampia libertà di dire quello che vogliono, per cui, ma al di là di questo, del sì o no, qui ragioniamo sull'ipotesi di manovra e nella seconda parte del programma cercheremo di fare il punto. E invito tutti a non tifare né per una cosa né per l'altra su questi benedetti dati sul mercato del lavoro, perché già abbiamo detto in molte occasioni, chiedemmo un anno e mezzo fa, lo fece il Sole 24 Ore con un editoriale, una moratoria dei dati sul lavoro. Cosa vuol dire? Fateli uscire una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 6 mesi, una volta, però una volta sola, non che una volta arriva l'INPS, poi la settimana dopo l'Istat e poi il Ministero del Lavoro, e oggettivamente noi abbiamo difficoltà a metterli assieme a capire. E quindi cercheremo di fare il punto, perché qui c'è poco da fare, siamo sulle sfumature, nel senso che è inutile andare verso il nero o il bianco. C'è un miglioramento dei dati sull'occupazione, c'è un rallentamento di questo miglioramento e c'è anche un rallentamento se all'interno di questi dati guardiamo la qualità dei contratti. E cioè, fermo restando che piuttosto che essere disoccupati è meglio avere un contratto a tempo determinato o con anche un'altra forma di collaborazione, se si va a vedere la qualità dei contratti ci si accorge che negli ultimi mesi stanno rallentando e anche in maniera netta i contratti a tempo indeterminato, effetto della decontribuzione che è ridotta a 4.000 euro all'anno e non più 8.000. Se si guardano i dati anno su anno è innegabile che vi sia stato un miglioramento degli occupati e un calo della disoccupazione. Poi, se invece si guarda l'andamento degli ultimi mesi, è altrettanto innegabile che questo miglioramento stia rallentando. Ecco perché va fatta un'analisi punto per punto. E da un lato il governo fa bene a rivendicare il dato positivo, dall'altro deve stare attento a non leggerli in chiave, diciamo, congiunturale, se posso usare questo termine, cioè dell'andamento trimestre su trimestre, perché anno su anno il miglioramento è netto, se si guarda trimestre su trimestre il rallentamento è altrettanto evidente. Un governo che oggi, per voce del suo premier, quindi Renzi, ha ricordato come il PIL sia più basso delle attese e che si debba fare di più. Di questo parleremo nella prima parte del programma, nella seconda commenteremo i dati sul lavoro. E parleremo anche del Monte dei Paschi di Siena, visto che quello che sarà il nuovo numero uno, domani c'è il Consiglio di Amministrazione a Milano del Monte dei Paschi, per la nomina del nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni di Fabrizio Viola. Appunto, il nuovo numero uno dovrebbe essere Marco Morelli, attualmente amministratore delegato di BofA Merrill Lynch. Polemiche le abbiamo lette in questi giorni sul fatto che Morelli sia stato responsabile corporate banking e capital markets e poi anche direttore finanziario del Monte dei Paschi tra il 2006 e il 2010, al tempo della gestione Mussari Baldassarri. Vale la pena però ricordare che le indagini della Procura hanno messo in luce come Morelli si oppose alle scelte gestionali di Mussari e Baldassarri, ambedue inquisiti in diverse inchieste. Una posizione che poi lo portò a lasciare il gruppo. Dopodiché, sul Monte dei Paschi, al di là di Morelli, il tema è e resta l'aumento di capitale da 5 miliardi. Da quello che stiamo capendo, potrebbe tutto slittare dopo il 2016, cioè nel 2017. E tra l'altro il pool di banche dovrebbe essere guidato da JP Morgan. Lì c'è polemica, a mio avviso anche una polemica giusta, sulle commissioni che prendono queste banche, anche perché c'è un modo per legare queste commissioni al buon risultato. Esiste una pratica, anche un'espressione in inglese, per la fee, cioè il compenso in caso di successo. Pagarle basta, insomma, con una banca messa in queste condizioni, circa 500 milioni di euro di commissioni sembra tanta roba. Cioè, fino adesso nella crisi del Monte dei Paschi ci stanno guadagnando solo gli advisor, quindi le banche d'affari che devono organizzare l'aumento di capitale. Detto questo, la borsa oggi per il resto perde l'1,50%, mentre Parigi l'1%, Francoforte lo 0,30%, Londra meno 0,13%, l'America perde l'1,31%. Perché Milano peggio delle altre, non tanto, non solo per i titoli bancari, ma quanto per Telecom Italia meno 4,5, Saipem meno 4,30, Unicredit meno 3,5, qui andiamo sulle banche, come Generali meno 3,16, Eni meno 3%, Mediaset meno 2,5 come Buzzi, Unice e Mubibanca, Tenaris meno 2,20 come Unipol, Unipol Sai meno 2, Fineco meno 1,80 come Popolare Emilia Romagna. Chi va bene oggi? Moncler più 1,90, Luxottica più 1,80, Poste Italiane più 1,80, Banco Popolare più 1,70, Pop Milano più 1,20%, come ST Micro Electronics. C'è la vicenda Telecom Italia, ne parleremo nel corso del commento di borsa. Mi chiedete dell'euro, l'euro a quota 1,12 poco mosso. Sui titoli petroliferi pesa l'andamento del petrolio, oggi è sceso di quasi 3 punti percentuali a $45 al barile. Generali, si stanno un po' raffreddando le ipotesi di una fusione con AXA, perché il numero uno, Philippe Donnet, ha escluso piani di fusione con AXA parlando in una conferenza a Monte Carlo, e questo raffredda le ipotesi speculative sulle generali. 349, dicevo, 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. E adesso le altre notizie in breve. Allora, non ho capito, però adesso andiamo avanti, perché mi scrive un ascoltatore: grazie per l'informazione politicizzata. Vabbè, senti, la veda come vuole, andiamo avanti. Draghi oggi ha detto, Mario Draghi, presidente della BCE, in una lezione magistralis a Trento, dove ha ricevuto il premio De Gasperi: è pericoloso fermarsi a metà del cammino con l'Unione Europea, delegare una parte della sovranità ma non proseguire significa rischiare di ripristinare i confini. Alcune sfide, ha aggiunto Draghi, sempre da Trento, richiedono condivisione di sovranità, completare il mercato unico è il solo modo per proteggerlo. L'azione comunitaria andava concertata in ambiti in cui era chiaro che l'azione unitaria dei governi non fosse sufficiente. E poi ha dato il suo parere positivo a un fondo di disoccupazione di carattere europeo, traendo spunto dalle recenti discussioni sull'equità fiscale su un fondo europeo di assicurazione dei disoccupati, e ha annunciato anche che il premio che ha ricevuto verrà devoluto alle vittime del terremoto. Lo ha ricevuto dal vicepresidente della provincia autonoma di Trento, Alessandro Olivi, alla presenza tra l'altro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, e anche un messaggio del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi. Goldman Sachs, o meglio Barroso a Goldman Sachs. Ma guardate, insomma, il tema qui è sempre dell'opportunità, nel senso che potremmo applicarlo anche a Schröder, che è andato a lavorare a Gazprom per la parte del Nord Stream come consulente sull'oleodotto del nord, sul gasdotto del nord Europa. Barroso, insomma, può rispondere quello che vuole, ma a mio avviso, dopo che tu hai fatto il presidente della Commissione Europea, potresti anche farti qualche anno, non dico sabbatico, ma almeno insegnare in qualche università, così, ma andare a lavorare per una banca d'affari in quel modo, Boh, allora, il comitato etico della Commissione Europea, uno speciale comitato etico della Commissione Europea, analizzerà il contratto dell'ex presidente della Commissione Europea, Manuel Barroso, con Goldman Sachs, per verificare che non vi sia conflitto di interessi, mi sembra il minimo. Tra l'altro, come segretario generale della Commissione, ha scritto Barroso chiedendo copia del contratto. Io ricordo che Barroso fu quel, diciamo, cerchio bottista presidente della Commissione Europea, che appunto dava un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ma in sostanza è grazie a lui anche, o sotto la sua presidenza, che l'Europa ha varato quel bellissimo piano di austerità Made in Germany, senza che Barroso avesse mai nulla a obiettare. Poi è arrivato Juncker con il suo piano, vediamo quanto sarà fumo e quanto arrosto, però almeno lì c'è un tentativo, riconosciamo questo a Juncker. Sotto Barroso, diciamo, che fosse portoghese e quant'altro, diciamo, la linea politica dell'Unione Europea, come sappiamo benissimo, è stata diretta a ampie mani dalla Germania. Questo per ricordare la figura di Barroso come politico, come presidente dell'Unione Europea, cioè, ha messo il suo cappello sulle politiche di austerity di questi anni. Oggi ha replicato comunque con una lettera al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, cioè il suo, chi l'ha succeduto, e dice, ha difeso la sua decisione di lavorare per la banca d'affari americana e definisce discriminatorie nei confronti suoi di Goldman Sachs le posizioni prese da Bruxelles. Barroso in particolare non è d'accordo con l'impostazione secondo cui il semplice fatto di lavorare per Goldman Sachs sollevi questioni di integrità. Barroso, dai, su, cioè, voglio dire, è ovvio che se tu vai un secondo dopo a lavorare in una delle principali banche, anche Mario Draghi vi ha lavorato, è vero, però poi è andato alla BCE. Qui è il caso opposto, e cioè tu da una carica istituzionale vai a Goldman Sachs, e sappiamo benissimo che non è stato l'unico, che però si sorprenda come una demi-vierge ci fa un po' specie, dai. Che poi difende la sua decisione di lavorare per la banca d'affari, va bene, cioè, anche Barroso tiene famiglia, su, questo è comprensibile. Andiamo ai dati sull'occupazione nell'Unione Europea. 19, mai così alta dal 2008, e record sostanzialmente nei 28 paesi, più 0,4% nel secondo trimestre. L'Italia sopra la media europea, più 0,5% l'occupazione anno su anno. La ricchezza delle famiglie dell'euro sale, ma non in Italia. Secondo il rapporto della Consob sulle scelte di investimento dei risparmiatori italiani, negli ultimi anni la ricchezza netta delle famiglie dell'euro è aumentata del 3,2%, mentre è rimasta sostanzialmente invariata, più 0,4% in Italia. E la Consob poi nel suo rapporto sugli investimenti finanziari delle famiglie cita il fatto che le famiglie italiane hanno un basso livello di conoscenza finanziaria, ignoranti in finanza, quasi il 60% non ne sa nulla, oltre il 20% non ha familiarità con alcun strumento finanziario. Allora, questo è vero, da anni chiediamo che un principio di educazione economico-finanziaria venga anche insegnato nelle scuole, non stiamo parlando di grandi cose, ma giusto così sapere cos'è l'inflazione, qual è il rapporto con i tassi di interesse e il costo del denaro, perché aumentano i tassi di interesse, quindi il mutuo, perché calano, in base a che cosa, perché c'è un rapporto tra appunto inflazione e costo del denaro, cos'è il PIL, ecco, cose che possono sembrare banali ma che non vengono insegnate nella nostra scuola. Dopodiché apprezziamo che la Consob si occupi di fare analisi sull'educazione finanziaria degli italiani e l'ignoranza degli italiani in finanza e sulla ricchezza. Apprezzeremo anche la Consob più tempestiva nel tutelare, diciamo, il risparmio di questi italiani ignoranti quando i titoli sono quotati e quando devi intervenire a capire cosa stanno facendo società quotate, e quando accendi il faro, diciamo, che venga ben posizionato questo faro, va bene? Allora, qualcuno mi dice che l'ho deluso perché ho... Ma io non ho criticato Fitch. dice, gli americani e Fitch ci hanno avvertito che se vincesse il no al referendum sfumerebbe la fiducia faticosamente guadagnata e con l'instabilità si allontanerebbero gli investimenti che portano posti di lavoro e ricchezza. No, ho solo detto che sono sempre molto scettico. Poi Fitch può scrivere e dire quello che vuole, lo fa sempre, come Moody's, come Standard & Poor's. Sono scettico quando un'agenzia di rating interviene su un tema di politica, di riforma costituzionale di un paese in maniera così netta e quasi da ingerenza esterna. Sono scettico sia sull'opportunità e, se vogliamo essere ancora più cinici e realistici, anche sulle conseguenze, cioè sul rischio di un effetto boomerang. Ricordiamoci cos'è successo in Gran Bretagna quando dall'estero hanno iniziato a dire agli inglesi: attenzione, tutti da fuori. Rischi di sollevare anche reazioni non dettate dal tema del referendum in questo caso, ma da un orgoglio nazionale di dire: io non mi faccio dire quello che devo votare da nessuno, ok? Cioè, ricordano un po' gli elefanti nelle cristallerie, ma tutto qua. Allora, i 100 secondi di oggi, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oltre che su Radio 24, come sempre, si occupano di economia e sui dati e le revisioni delle stime di crescita economica, di cui ha parlato oggi anche il Premier Renzi, poi lo ascolteremo. La firma oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La notizia era nell'aria, ma ora è il ministro dell'economia Piercarlo Padoan a confermare che nelle prossime settimane, insieme all'aggiornamento del DEF, che è il documento di economia e finanza, quello che contiene gli elementi base per la legge di bilancio, arriveranno le nuove previsioni del governo sulla crescita italiana. L'ultima rilevazione dell'Istat ha segnalato la frenata con crescita zero del nostro prodotto interno lordo, con un'economia che quindi non sta più crescendo così velocemente come ci si aspettava. Basta dire che esattamente un anno fa, ottobre del 2015, le aspettative di crescita per il 2016 erano grosso modo dell'1,5%, poi sono scese all'1,2%, poi si sono ulteriormente ridotte all'1%. Ora si andrà ancora più giù, probabilmente intorno allo 0,8-0,9%, in linea con le previsioni fornite dagli istituti internazionali. È vero, come dice Padoan e come ha pure ribadito il premier Matteo Renzi, che l'economia sta comunque crescendo dopo 3 anni di recessione, ma è altrettanto vero che proprio perché la recessione è stata così violenta, così profonda, sarebbe servito ben altro slancio per recuperare capacità produttiva e creare anche nuova occupazione. In ogni caso, questo è lo scenario che si presenta alla vigilia della nuova legge di bilancio, nella quale, a maggior ragione e pur nel rispetto dei vincoli dell'Unione Europea, bisognerà trovare gli spunti e gli strumenti giusti per dare più vigore alla crescita della nostra economia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, partiamo col primo tema, il PIL che cresce meno delle attese. Non è mai cresciuto bene sto PIL, diciamocela tutta. È un gerundio, è una speranza, è un'ipotesi. 0,7-0,8, questo è quello che faremo quest'anno, forse c'è chi è ancora ottimista. Comunque, il Premier Renzi oggi a Milano, la verità, era prima un incontro da Siemens, poi è andato a firmare il patto per Milano. Dicevo, il PIL è più basso, è vero, si può fare di più, e ascoltiamo questo assieme anche al ministro dell'economia Padoan, che oggi, non ieri a porta, ma oggi, intervenendo alla Romani Conference, ve lo faccio sentire in inglese e poi tanto la traduzione è facile, ha ribadito lo stesso concetto, cioè le previsioni saranno tutte riviste al ribasso. Oggi c'è stata una polemica perché il ministro Padoan ha detto che i dati del PIL saranno più bassi di quello che noi speravamo. Noi diciamo la verità, è così. I dati del PIL che erano negativi fino a qualche anno fa, perché siamo partiti da un dato del PIL che era del meno 2,3% nel 2012 e del meno 0,19% nel 2013, i dati del PIL sono tornati positivi, ma ancora non vanno con la velocità che noi vorremmo. E quando accade questo, il nostro governo dice la verità, non racconta barzellette. Non si mette a nascondere i dati, dice sì, vorremmo fare di più, speriamo di poter fare di più. The Italian economy is growing, if you look at figures. Of course, it's not growing as fast as I like to see. Growth forecasts have been revised down and will be revised down also in the forecast the government is about to release and as a background to the budget law framework, which will be handed over to Parliament on the 15th of October and also, of course, at the same time sent to the Commission, European Commission for scrutiny. Beh, è buono anche l'inglese di Padoan, eh? Questo senza voler fare confronti tra quello di Padoan e quello di Draghi. Beh, è chiarissimo, ha detto le figures, i numeri vedono un PIL in crescita, quindi positivo, ma in rallentamento. Le due cose non sono uno simbolo, non sono in contraddizione da questo punto di vista. E poco fa, intanto ringrazio l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Guido, buonasera, bentornato innanzitutto. Buonasera, grazie, buonasera. Bentornato per occuparci sempre di allegrie. Allora, di cose allegre. Poco fa il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, a margine del convegno organizzato da Area Popolare, PIL a ribasso, era una cosa aspettata, ci indica solo il fatto che dobbiamo lavorare ancora di più sulla competitività del paese. E poi sempre il nostro Vincenzo Miglietta ha raggiunto anche il presidente Confindustria Boccia, che ha detto non è una novità, è in linea con quanto anticipato, devo dire che lo trattammo con il direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi, quanto anticipato dal Centro Studi, e poi anche la Furlan, sono appena arrivate queste voci, Anna Maria Furlan, sempre sul tema della crescita, ascoltiamole tutte assieme. Aspettata e ci indica solo il fatto che dobbiamo continuare a lavorare ancora di più sulla competitività del paese. Era in linea un po' con i dati del Centro Studi, è evidente che il rallentamento anche della questione internazionale comportava questa previsione, una ragione in più per far conto sulla competitività delle imprese italiane e non avere alibi per affrontare la grande questione industriale italiana. Presidente, l'accordo è fatto tra governo e sindacati sulle pensioni, si va verso la direzione giusta per la flessibilità in uscita? Beh, ho letto una dichiarazione del segretario Camusso che non dà per scontato l'accordo, è sicuramente da attenzionare nel metodo, cerchiamo di fare cose però che hanno una caratteristica di organicità e non per pezzi, altrimenti ci perdiamo la visione complessiva dell'economia del paese. Significa che dobbiamo crescere e dobbiamo puntare molto sulla crescita. Ormai questo tormentone del PIL 0,1 in più, 0,1 in meno è una persecuzione. Il dato vero è che la nostra economia è ancora troppo, troppo ferma. Certo, non siamo più sotto zero, questo è un dato positivo, ma quello che è stato fatto finora è evidente che non basta assolutamente. Abbiamo bisogno di investimenti per la crescita, investimenti pubblici e investimenti privati. Bisogna investire sulle infrastrutture, sull'innovazione, sulla ricerca, su tutto ciò che fa crescita nel nostro paese. Allora, Guido Gentili, mentre vedo un messaggio che dice: vi ricordo che un anno fa le borse viaggiavano a 24.000 punti, adesso siamo a 16.000, dove che pensate di andare con questi giochetti? Pensate che la gente sia stupida, che creda le vostre, che... svegliatevi. Allora, a quest'ora tendo a essere sveglio anch'io. Detto questo, scusi, ma che responsabilità abbiamo se le borse sono a 16.000 punti invece che a 24.000? Forse c'è stata la Brexit sui mercati, forse sono nervosi in questi giorni perché l'America prima o poi andrà a aumentare i tassi di interesse, forse l'economia anche nel resto dell'area euro non sta crescendo come dovrebbe, non lo so, ma la colpa obiettivamente su questo non è nostra. Guido, operazione verità da parte del Presidente del Consiglio, perché insomma sta ammettendo, aveva già iniziato, devo dire, a fine agosto, vado a memoria, in un'intervista dicendo non sono contento del PIL, Operazione Verità, perché insomma, conviene a questo punto essere, non dico sinceri, ma essere molto cauti, oppure la situazione è veramente sta scivolando verso elementi così deludenti che anche il governo deve ammetterlo? Ma io credo che sia un po' la somma di tutto quello che tu hai detto. L'Istat ci ha già fatto capire chiaramente con i dati dei primi due trimestri dell'anno che a fine 2016 saremo intorno al più 0,8%, forse più 0,9%. Nel primo caso siamo allo stesso livello del 2015, nel secondo caso si potrà dire che il PIL è cresciuto di un altro 0,1% rispetto all'anno scorso. Con ogni evidenza si tratta di cifre che non bastano, che non sono sufficienti a far parlare di una ripresa vera, duratura, e che, stando diciamo, all'analisi del Fondo Monetario Internazionale, ci porterebbero a recuperare i punti di PIL persi durante la grande crisi partita nel 2007 intorno al 2025-2028. Sì, vabbè, che poi potremmo dire anche 2030, tanto chi se ne frega, non ce lo ricorderemo quindi, più. Voglio dire, e quindi è talmente basso questo ritmo di crescita, è talmente anomalo, peraltro, rispetto, come sappiamo, rispetto ai nostri paesi amici e concorrenti, che è evidente che dovremmo cambiare marcia, ed è altrettanto un fatto che credo abbia fatto bene il Presidente del Consiglio a evidenziare quella che è la realtà dei fatti, e che quindi il 27 di settembre il governo correggerà le sue previsioni e le sposterà all'indietro. E questo, diciamo, è una presa d'atto della realtà. Devo dire che anche il Padoan di ieri e di oggi va in questa direzione, quando dice l'IRPEF, secondo me personalmente è sbagliato, però insomma l'IRPEF la spostiamo alla riduzione al 2018, frena su tutto praticamente, poi l'accordo sulle pensioni, quasi accordo, lo abbiamo raccontato anche ieri. E dopo il meteo però ti chiederei un'altra cosa, Guido, quanto a questo punto stiamo ragionando di legge finanziaria, di legge di stabilità, di legge di bilancio, come si chiama adesso, quanto sarà una legge non elettorale ma referendaria? Perché insomma non sfugge a nessuno che se qui poi tu vai a spostare la data del referendum a fine novembre, inizio dicembre, beh, quello è il periodo in cui tu all'Europa avrai già dovuto presentare i cardini e il dettaglio della tua legge di stabilità. Dopo il meteo la risposta, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Guido Gentili, di solito parlava in questi 15 anni, 16 anni di dirette, abbiamo parlato ogni tanto anche di leggi di stabilità elettorali, finanziarie elettorali. Qui c'è una finanziaria che rischia di essere referendaria. Traduco, quanto peserà la coincidenza ormai di fatto temporale tra il dover preparare la legge di stabilità e il referendum, che sarà a fine novembre, inizio dicembre? Sarà certamente, da mesi si sapeva che questo era un incrocio pericoloso tra l'appuntamento referendario e la legge di stabilità. Certo, ci avrebbe aiutato moltissimo un aumento del PIL sostanzioso, purtroppo così non è, e quindi il governo si trova a dover fare un'operazione bifronte. Da un lato, diciamo, vedendo solamente, diciamo, il lato politico, di convenienza politica del governo, fare una misura che in qualche modo venga incontro a una risposta positiva sul referendum, e dall'altro una manovra in qualche modo rigorosa che sappia rispondere efficacemente alle obiezioni che arriveranno da Bruxelles per l'alto livello persistente, altissimo livello persistente del debito pubblico, e dall'altra di continuare sul tracciato, diciamo, riformista. E quindi sarà un difficile compromesso tra queste due esigenze. Vediamo che intanto siamo partiti con il primo lato che abbiamo aggredito in questo momento è quello delle pensioni, e quindi sono dei provvedimenti che vanno nella direzione di incentivare l'uscita, e quindi sono provvedimenti che in qualche modo cercano anche di dare, anche in qualche modo anche come giustizia sociale, di dare respiro alle categorie più in difficoltà. Però è anche vero che sono rimaste un po' più in ombra le questioni fiscali. Certamente è stato confermato il taglio dell'IRES, che era già previsto dalla finanziaria dell'anno scorso, però abbiamo visto, come era assolutamente prevedibile, la rinuncia alla manovra sull'IRPEF, e non vedo all'orizzonte a qualche altro, diciamo, shock fiscale capace di ridare ossigeno all'offerta, al tema grosso che tutti evocano, esatto, senza però riuscire a trovare una soluzione, degli investimenti. Ragazzi, qua anche l'ultimo dato che abbiamo visto sul PIL vedeva consumi che tutto sommato si muoveva, l'export che non va bene come gli scorsi, ma ancora tiene. Il problema è che sono gli investimenti pubblici, in primo luogo, della pubblica amministrazione, a essere pari a zero. Se tu storicamente non fai ripartire gli investimenti, che non vuol dire gli sprechi, per favore, gli investimenti della pubblica amministrazione, difficilmente ripartono quelli dei privati, che pure anch'essi sono deboli, ma ci sono. È il tema degli investimenti, cioè utilizzare bassi tassi di interesse e questa finestra per fare investimenti. Certo che ci vuole l'Europa. Guido Gentili, però, giustamente fanno notare alcuni ascoltatori, ma insomma, stiamo ragionando di un PIL allo 0,8 nonostante il petrolio sia ancora 45, i tassi di interesse siano zero, lo Stato riesce a mettere, a rifinanziare il debito spesso con i bot a un anno, a sei mesi, in negativo, quindi ci guadagna. Ora l'euro è a 1,12, 1,11, quindi non rappresenta un problema, e ha il vantaggio che nel frattempo anche il petrolio sia basso, quindi non hai l'inflazione importata. E Guido, quando ci ricapita? Infatti questo è il grande problema, che non solo rischia di non ricapitarci da qui ai prossimi anni, ma rischia questa finestra di chiudersi da qui a pochi mesi. Perché io non credo che sarà possibile continuare ancora per molto sulla strada dei tassi zero, e a quel momento noi assisteremo a una nuova inversione di tendenza che ci complicherà di nuovo i conti. Mm-hmm. Questa era l'occasione giusta ed è stata, secondo me, colta molto parzialmente. Questo sarebbe l'ultimo treno, questo della legge finanziaria, della legge di bilancio per il 2017, per impostare una manovra che abbia davvero la scossa per la crescita e quindi per gli investimenti. Io credo che dovremmo invece però alla fine accontentarci, appunto, una soluzione di compromesso, e questo sicuramente non farà bene all'economia. No, più che non farà male, però non darà lo shock a chi scrive dei consumi. Certo che l'IRPEF, la manovra su, come la chiamiamo noi, le tasse per chi lavora, le tasse per chi il lavoro lo dà, era importante perché riducendo il cuneo fiscale da un lato permetteva ai lavoratori di avere più soldi in busta paga, dall'altro poteva anche risolvere qualche tensione e qualche rinnovo contrattuale, e quindi di fatto avrebbe permesso un aumento del potere d'acquisto. Ma non c'è solo il fronte dei consumi, c'è il fronte degli investimenti. Attenzione, l'abbiamo spiegato molte volte, se non c'è una fiducia che si genera anche con un piano serio di investimenti avallato dall'Europa, ci mancherebbe, tu puoi anche avere 80 euro in più o 200 euro in più in busta paga, dipende da quello che è la manovra, ma non li spendi, e quindi restano a fare risparmio, restano sotto il materasso, che è quello che come sta accadendo adesso, perché noi vediamo che nonostante tassi zero i consumatori, i cittadini continuano a risparmiare. Infatti aumenta la percentuale di risparmio degli italiani. Questo è il problema, diciamo, della fiducia, e anche di dare un elemento pubblico alla fiducia. Comunque, grazie per ora, Guido Gentili. Traffico. Focus Economia. I just hope it ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Oh, mentre eravamo in pausa traffico, è arrivata una notizia dagli Stati Uniti in cui il reddito americano è arrivato a livelli più alti del 2008. Eccolo qua, superato il livello 2008 più 5,2%. Cala la povertà e aumenta l'assicurazione sanitaria. Sarà un caso che l'America ha seguito le politiche esattamente opposte a quelle dell'area euro, di Barroso, della Germania, della Merkel? Sarà un caso che loro hanno stampato dollari ma hanno fatto anche investimenti, quindi tutta la liquidità che creava la Fed la assorbiva il governo federale per fare investimenti, non la lasciava galleggiare, diciamo, come un cloud di soldi in giro per l'Europa? Sarà un caso che non sono ossessionati dal deficit ma dalla disoccupazione? Che miseria, guarda. È che ai tedeschi, come dicono a Brescia, è più facile mettergli da una certa parte che mettergli in testa le cose, perché dopo 8 anni che stiamo osservando queste dinamiche, ancora austerity. Allora, adesso arriviamo alla borsa, però Monte dei Paschi, la polemica su Morelli l'abbiamo ricordata. In realtà, e chiedo qui subito, andiamo al sodo, a Luca Davide, Sole 24 Ore. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Domani consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, nomina del nuovo amministratore delegato, sarà molto probabilmente Marco Morelli, ex, a questo attualmente ancora amministratore delegato di Bank of America Merrill Lynch in Italia, e poi è stato, da lì la polemica, dal 2006 al 2010, lui era prima responsabile corporate banking e capital markets di Monte dei Paschi e poi è diventato anche direttore finanziario. C'è chi dice questa è la dimostrazione che Morelli non può prendere quella carica perché lì gestivano la banca il duo sotto, che ormai è finito sotto parecchie inchieste, Mussari-Baldassarri, e invece c'è chi ricorda che vi furono degli scontri proprio con Morelli, che lui se ne andò per l'opposizione alle scelte del duo Mussari-Baldassarri. Sì, diciamo che su questo, insomma, c'è stata anche un po' di polemica, presumibile che, insomma, anche a Francoforte magari ci sarà una valutazione, c'è stata, perché oggi c'è stato un incontro proprio tra Morelli e i vertici del Single Supervisor Mechanism, cioè della vigilanza europea su questo tema. Morelli in realtà la sua posizione sta archiviata, quando parliamo proprio del dossier e dei famosi derivati Alexandria, insomma, quindi è una posizione che non presenta macchie tali da, anzi, non le presenta di fatto proprio per in questo caso. Domani vedremo, arriverà presumibilmente la designazione formale ufficiale, e a quel punto scatterà il meccanismo proprio di controllo e verifica ufficiale della Banca Centrale Europea, che però, diciamolo chiaramente, in questi giorni informalmente ha già dato il suo benestare, quindi insomma possiamo dire tranquillamente che è una polemica già archiviata. Il vero tema invece è che cosa dovrà fare, potrà fare questo Morelli. Aumento di capitale sta slittando al 2017, c'è chi anche l'ha collegato al referendum, ormai tutto quello che succede è il referendum, però citiamo anche questo. È possibile, è davvero una richiesta, una pressione che arriva dagli investitori, perché vogliono capire che cosa succederà in Italia, vogliono essere forse anche più sicuri, magari che non ci sia un rischio politico connesso a questa eventuale bocciatura, insomma un tema della riforma costituzionale che interessa e che sicuramente viene guardato con grande attenzione dagli investitori. A valle di questa scelta, di questo referendum, probabilmente a quel punto si capirà qualcosa di più anche sull'esito di questo referendum, di questo aumento di capitale, che potrebbe scendere a questo punto da 5 a 2-3 miliardi, quindi ridursi l'ammontare di denaro fresco che verrà immesso nella banca senese, e combinarlo invece a una conversione di bond subordinati che sono in mano agli investitori istituzionali. Questo è già qualcosa che è sul tavolo di tutte le banche d'affari e degli stessi investitori, e che quindi probabilmente andrà in questa direzione. Andremo probabilmente un po' più in là invece con i tempi, perché ci vuole comunque impegno da parte ovviamente di tutti i soggetti interessati a capire le technicalities di questo aumento di capitale, e quindi andremo nel primo trimestre del 2017 realisticamente. 1, 2, 3, 0. Quindi tutto nel primo trimestre 2017, mi sembra che comunque alleggino ancora poche idee ma confuse, nel senso 5 miliardi, 2 e mezzo con la conversione del corporate. Devo dire che con più di un banchiere con cui abbiamo parlato in questi giorni, insomma, quello che tutti ci dicono è che dovunque vadano in Europa o all'estero, quando si arriva alle banche italiane, gli dicono: è il Monte dei Paschi. Cioè, è il tema grosso. È il tema grosso, non ce lo dico perché, insomma, al di là del referendum o no, questo è il tema. Grazie intanto a Luca Davi. La borsa la facciamo dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e whatsapp. E poi parliamo anche di questi dati sul lavoro che sembrano la coperta di Linus. GR24. Il segnale orario vi è offerto da. Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. State ascoltando un programma offerto da. Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa e poi cercare di mettere un po' di ordine e chiarezza, se ce la facciamo, su questi dati, su questa orgia di dati, sull'occupazione, la disoccupazione, gli inattivi, i giovani. Allora, andiamo con ordine. La borsa innanzitutto, oggi giornata non bella a Milano e tra l'altro Milano tra le peggiori oggi in Europa. Parigi meno 1,20, Francoforte meno 0,40, Londra meno 0,50, Dow Jones adesso però ha imboccato in maniera insistita, diciamo, la strada del ribasso meno 1,30, Milano fa meno 1,70 per via soprattutto di petroliferi, Saipem meno 4,80, Eni meno 3,30, poi Unicredit meno 4,20 e Telecom meno 3,80, Generali meno 3,50%. Cito anche chi bene è andato: Poste Italiane più 1,40, Luxottica più 1,40, Steam Microelectronics più 1,20, come Moncler, Banco Popolare più 1%, mezzo punto per la Pop Milano. Come sempre il commento con Radio Core, il Sole 24 Ore, e partiamo proprio dai titoli che più sono calati. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Petrolio su Eni e Saipem, ma Telecom e Generali. Sì, la correzione forte del petrolio ha fatto sì che i minerari e l'energia fossero i peggiori settori e ancora ne stanno facendo le spese Eni, Saipem e anche Tenaris, che in questo avvio di settimana stanno pagando fortemente questa correzione dei minerari. Dall'altro canto le generali sono tornate ad allontanarsi da quota 12 euro questa mattina. A Monte Carlo l'amministratore delegato Donné ha smentito qualsiasi ipotesi di progetto di integrazione con AXA, facendo un po' calare la speculazione, e il titolo ha perso il 3,5%. Per quanto riguarda Telecom Italia, è già da due o tre sedute che il titolo sta soffrendo di indiscrezioni o di rischi in arrivo. Ieri gli analisti si soffermavano sul tema della revisione dei costi del roaming in Europa, progetto ancora non definito, che potrebbe portare, che porta, diciamo così, delle incertezze su eventuale concorrenza. Oggi ci si sofferma su alcune indiscrezioni sui progetti di Iliad, l'operatore telefonico francese, che punterebbe ad avere una quota di mercato nel telefonia mobile italiana tra il 10 e il 15%. Alcuni broker ritengono che questa prospettiva, per quanto aggressiva la strategia di Iliad, non sia facilmente raggiungibile, ma qualche timore sulle prospettive di Telecom in Italia rimane, il titolo viene fortemente penalizzato. Allora, Luxottica, qui c'è un report di Deutsche Bank che dice che il titolo quota a sconto, cioè meno di quanto dovrebbe. Andiamo invece su le due banche che oggi meglio si sono mosse, Popolare e Pop Milano. Beh, ieri la società, le due società dopo il via libera dell'Unione Europea all'integrazione hanno convocato le assemblee per metà ottobre, assemblee decisive e non del tutto certe nell'esito, almeno fino a questo momento, da cui dovrà arrivare il via libera all'integrazione. Hanno comunicato anche i prezzi di recesso, ovvero i contanti che potranno andare in tasca agli azionisti che non voteranno a favore della fusione. I titoli, diciamo, hanno accolto positivamente il via libera e la convocazione delle assemblee. Bisognerà a questo punto, insomma, l'attenzione sarà sulla capacità degli azionisti di unirsi e dare il via libera all'operazione. Andiamo ancora con altri titoli. Poste Italiane, qui c'è una dichiarazione di Giacomelli, no? Sì, che ha allontanato ulteriormente, come già sembrava negli ultimi giorni, il progetto di collocamento in borsa. Giacomelli, ricordo, perché è dato per scontato, il sottosegretario alle comunicazioni, prego. Sì, il sottosegretario allo sviluppo economico che ha allontanato probabilmente ai primi mesi del 2017 il progetto di quotare un ulteriore 30% di Poste Italiane, progetto che il Tesoro ha già comunicato prima dell'estate. Ma su Poste c'è anche l'attenzione per quanto riguarda le operazioni straordinarie, e da giorni che parliamo di questa possibile offerta nei prossimi giorni per il risparmio gestito di Unicredit, cioè per Pioneer. Oggi voci parlavano anche di un ingresso con una quota importante nella società di piattaforma di gestione dei pagamenti, dei circuiti di pagamento, cioè SIA, e quindi due argomenti che sì, piacciono al mercato e fanno recuperare Poste. Ancora tra i titoli che hanno perso oggi, quelli positivi li abbiamo detti tutti praticamente, vado avanti con Unipol meno 2,70, Ubibanca meno 2,60, come Buzzi, Unicem e Pop Emilia Romagna. Il 2,30 lo perde Fineco Bank, il 2,20 Tenaris, Intesa San Paolo meno 1,90 e Unipol Sai meno 1,70 come CNH Industrial. Chiudo con Azimut, Enel e Ferrari, ma anche Fiat Chrysler, che hanno perso l'1,40. Monte dei Paschi, visto che prima ne parlavamo, l'1% di calo. Ancora tra i titoli, i migliori e peggiori in assoluto: SNAI più 12,60, Lucisano Media Group più 9,95, Linde più 4,30, Anima Holding più 4,20. Il fronte opposto vede Vita, società editoriale meno 7, Visibilia editore meno 6,40, Energy Lab meno 5,60, Safebag meno 5,60%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Allora, vedo molti messaggi al 349-238-6666, sia come sms come whatsapp, sul tema dei dati sul mercato del lavoro, con cui ci stiamo scornando da mesi, per essere buoni. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, 18... Ma che base mi avete messo? Per favore, non è ancora il momento dell'aperitivo, per cui magari se la cambiamo in regia, anche perché in questo programma l'unico ape di cui si parla è l'anticipo pensionistico che ha annunciato ieri il governo. Devo parlare dei dati sul lavoro, poi aspettiamo venerdì, aspettiamo l'estate, andiamo su una cosa un po' più... Ok. Parliamo dei dati del mercato del lavoro. Allora, nell'arco di due settimane e mezza abbiamo collezionato un insieme di dati che congiunturalmente erano non belli, che qualitativamente dimostravano che c'era in realtà una ripresa forte dei tempi determinati, dei voucher, un calo forte dei tempi determinati. Se però li guardiamo a livello anno su anno, notiamo, come ha detto ieri l'Istat, che ci sono 189.000 occupati, scusatemi, in più, che su base annua la crescita è complessiva di 440.000 occupati, con una crescita significativa degli occupati tra i 15 e i 34 anni. Però poi, ripeto, è che la disoccupazione giovanile è calata all'11,5%, contro la disoccupazione complessiva all'11,5%, quella giovanile al 35,5%. Poi se uno guarda i dati dentro e guarda la qualità di questi dati, allora vede che i tempi indeterminati nel secondo trimestre hanno fatto più 0,3, quelli a termine hanno fatto più 3%, gli indipendenti più 1,2. A livello annuale è aumentata la crescita dei tempi indeterminati, ma anche dei tempi a termine, torna al lavoro indipendente. Insomma, noi chiedemmo, come Sole 24 Ore, un anno e mezzo fa almeno, una moratoria su questi dati, cioè Istat, INPS e Ministero del Lavoro chiedemmo che si potessero fermare e dare i dati ogni trimestre, ogni bimestre, ogni semestre, ma un solo dato, perché sennò la strumentalizzazione politica è dietro l'angolo, sia in un senso, cioè tutti positivi, sia nell'altro tutti negativi, c'è cioè chi gode in maniera un po' tafazzista se le cose vanno male. Giro l'interrogativo, sì, vuole la tracklist di Focus Economia. Una volta volevamo anche farlo, CD. Giro la domanda all'ex ministro del lavoro, già presidente dell'Istat, quindi diciamo ha accumulato un insieme di responsabilità nella sua vita, e è attualmente professore ordinario di statistica economica all'Università di Tor Vergata, Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. Adesso lei può parlare come ex ministro del lavoro, come ex presidente dell'Istat o come attuale professore ordinario. Prima domanda, è giusto chiedere una moratoria, cioè chiedere che questi dati escano una volta solo, così anche noi cerchiamo di capirli? No. Sì, può essere anche giusto chiederlo. La verità è che sono dati che raccontano storie diverse, perché sono intrinsecamente diversi. I dati dell'Istat derivano da indagini statistiche, quelli del Ministero del Lavoro e quelli di fonte INPS sono dati amministrativi, l'universo di riferimento, cioè i settori, i tipi di lavoro considerati sono diversi, per cui l'errore che si fa è di andare sempre comunque a guardare i totali. D'altra parte INPS, Ministero del Lavoro, danno dei dati utili per capire come stanno cambiando i contratti di lavoro. Comunque se uno... Allora, però Giovannini, allora partiamo da domande molto semplici, come se dovessi spiegarla a mio figlio o anche a me stesso, onestamente. Allora, complessivamente, sto 2015, buonanotte, vede che sto 2016, sta andando meglio sul dati disoccupazione e occupazione rispetto al 2016, sì o no? Nel primo semestre del 2015, e poi torniamo su questo, sta crescendo l'occupazione. Sta crescendo l'occupazione di tutte le forme o quasi, ma questo aumento di occupazione che registriamo nel 2016 in realtà è frutto di tre momenti diversi. Nel primo fenomeno, nella prima parte, grazie al decreto Poletti che liberalizzò i tempi determinati, cioè il lavoro flessibile, la crescita occupazionale in presenza di una crescita molto contenuta del PIL era tutta lavoro a termine. Poi con il Jobs Act e la decontribuzione nel 2015 invece sono partiti i lavori cosiddetti a tempo indeterminato, in realtà a tutele crescenti, per i quali le imprese hanno avuto un fortissimo contributo. Appena il contributo è sceso nel 2016 e appena le nubi sul futuro dell'economia si sono riaddensate, nel primo semestre del 2016 sono ripartiti i contratti a termine, al punto tale che dopo il Jobs Act, dopo tutta la decontribuzione che è costata svariati miliardi, la quota di lavoro a termine è tornata a essere quella che c'era prima del Jobs Act. Quindi, in conclusione, l'occupazione da che è ripartita l'economia è cresciuta del 2%, mentre il PIL è cresciuto solo dell'1%. Vuol dire quindi che i provvedimenti presi hanno aumentato l'intensità occupazionale complessiva, ma con questi fenomeni diversi. E poi c'è il fenomeno dei voucher, su cui se vuole torniamo. Allora, vediamo se ho capito io. Lei dice la tendenza anche nel primo semestre complessivamente data è di un aumento dell'occupazione. Io ho sempre detto e lo ribadisco che piuttosto che essere disoccupati, meglio un contratto a tempo determinato e meglio anche un voucher. Però è ripresa l'occupazione. Detto questo, se ho ben capito Giovannini, è rallentata l'intensità con cui riprendeva questa occupazione e questo è dovuto al fatto che chi poteva sfruttare il Jobs Act l'ha fatto nel 2015, che la decontribuzione valeva 8.000 euro l'anno, fino a 8.000 euro l'anno per tre anni nel 2015, quest'anno vale 4.000 euro, fino a 4.000 euro per tre anni, quindi è meno conveniente. E se ho ben capito il suo ragionamento, il rallentamento dell'economia ha fatto frenare anche chi magari aveva pensato di assumere nel 2016, vede delle prospettive più incerte. Assumere a tempo indeterminato. E quindi punta sugli altri contratti. Questo è il dato complessivo. Poi se si guarda che tipo di occupazione stiamo creando negli ultimi mesi, fermo restando che il dato è positivo, ci accorgiamo, se ho ben capito Giovannini, che si sta spostando dai tempi indeterminati ai tempi determinati e ai voucher. In più si sta spostando verso lavori part-time, quindi vuol dire che il numero di teste di occupati sta crescendo, cresce il numero di ore lavorate, però una parte dei nuovi lavori creati sono o part-time o sono attuati attraverso i voucher. E i voucher. Parliamo dei voucher un secondo. C'è chi ne sta abusando, perché il governo aveva promesso anche misure su questo. Insomma, la sensazione nostra è che nel momento in cui aumenta l'incertezza, aumenta anche l'utilizzo improprio, per essere buoni, dei voucher. Io credo che qui non sia l'incertezza, ma sia una solita divisione delle imprese italiane tra quelle che accettano la sfida dell'innovazione, della regolarità, dei mercati internazionali che appunto hanno magari sfruttato la decontribuzione e sono andati sui contratti a tempo indeterminato, e quelle che invece cercano di sopravvivere grazie all'evasione fiscale, grazie alla riduzione dei contributi, e queste di fronte alla chiusura di una serie di posizioni di contratti flessibili, co-co-co e così via, che mascheravano in questi casi in realtà lavori veri e propri, mascherati da lavori, diciamo, sono andate nella direzione opposta, cioè c'è stata una divaricazione tra chi ha scelto appunto una prospettiva più di medio termine e chi invece ha aumentato ulteriormente la precarizzazione. Questo è un risultato non voluto. Il governo, come lei ha ricordato, aveva immaginato la tracciabilità dei voucher e così via, però sappiamo anche che chi non vuole appunto muoversi nella direzione di un'economia moderna non è che perché i voucher vengano tracciati cambi idea. E quindi, aumentata l'occupazione, aumentata il numero di persone attive, questo vuol dire gli occupati, è rallentata il tasso ed è, tra virgolette, peggiorata, se posso così dire, la qualità di questo tipo di occupazione. Nei primi mesi del 2016. In più c'è un altro dato che è un po' preoccupante, e cioè il tasso dei posti vacanti, che sono quei posti che le imprese si accingono a riempire attraverso selezioni, nella prima parte, soprattutto nel secondo trimestre del 2016, è sceso. Quindi vuol dire che le imprese stanno abbassando le loro aspettative di assunzioni. In più a luglio, e questo è il dato che aveva colpito molto l'opinione pubblica, perché è molto vicino tra l'altro alla pubblicazione dei dati sulla crescita zero del PIL, l'occupazione è diminuita rispetto a giugno. Quindi effettivamente. E qui andiamo all'ultimo aspetto, e cioè una macchina può continuare ad andare avanti e quindi a percorrere chilometri, se vogliamo usare questo esempio, però è importante anche a che velocità va. Per cui, come per il PIL, è importante a che velocità entra nel 2017, non è solo il più, ma che tipo di tasso. Anche sull'occupazione tu puoi avere un'occupazione in aumento che rallenta però il suo tasso di aumento. Non so se il discorso sia chiaro. Ed è quello che sta avvenendo, da quello che noi vediamo, Giovannini? E quello che sta avvenendo è accaduto a luglio, oggi i dati sulla produzione industriale di luglio mostrano un leggero aumento sul mese precedente, ma su livelli nettamente inferiori a quelli del trimestre precedente, quindi questa conferma del rallentamento è venuta anche oggi, e queste prospettive nei cosiddetti tassi di posti vacanti confermerebbe un atteggiamento molto meno espansivo dell'occupazione, soprattutto nell'industria. Allora rispondo a chi mi dice vi state arrampicando sugli specchi. No, guardi, il problema è che delle volte la realtà non è fotografabile con uno slogan, con uno schieramento, con un bianco, con un nero. Questo è il problema, bisogna è più articolata, e cioè tu puoi dire che è vero, numeri alla mano, e ha ragione il governo nel dire piaccia o non piaccia, in chi invece è contento del tanto peggio, tanto meglio, che l'occupazione è aumentata, che la disoccupazione è diminuita e che il numero di occupati complessivamente in un anno è aumentato, è nei numeri. È altrettanto vero che se guardi la velocità di questa macchina sta rallentando, e anche la qualità, potremmo dire così, della spinta è una qualità che si sposta più verso i voucher, verso i tempi determinati, e meno verso i tempi indeterminati, e stanno assieme le due cose. Poi è chiaro che il governo tira da una parte, l'abbiamo chiamata coperta di Linus, dall'altra l'opposizione dice no, vedi che i dati congiunturali sono tutti in peggioramento, hanno ragione tutti e due. L'importante poi è non festeggiare se i dati sono negativi, a mio avviso. Giovannini, in una battuta, perché ho pochissimi secondi, da quello che lei capisce, questa tendenza ce la portiamo dietro anche nel secondo semestre? Beh, è chiaro che il rallentamento dell'economia proseguirà, quindi il rischio è che ci sia un rallentamento anche nella creazione di nuovi posti di lavoro. Da un lato abbiamo l'occupazione che cresce, lei ha citato la disoccupazione che diminuisce, di meno perché molti inattivi, molti scoraggiati sono tornati a cercare lavoro. C'è un dato su cui magari torneremo una prossima volta, visto che lei a questo tema è sempre molto attento, il fatto che l'occupazione sia cresciuta più del prodotto ha ridotto la produttività, che non è altra che data dal rapporto tra prodotto e numero di persone. Io lo dico con estrema onestà, io su sta produttività non ci ho mai capito niente, non riesco tuttora a capire come si misuri sta produttività, lo so benissimo la definizione, però detto questo ci torneremo, ho capito già dove vuole arrivare: se aumentano gli occupati si riduce un po' la produttività. Grazie per la chiarezza, Enrico Giovannini, spero che la stessa chiarezza siamo riusciti a trasmettere agli ascoltatori. Di più non ce la faccio, ma vi do appuntamento a domani dalle 17 in poi, e intanto vi auguro buona serata. Radio 24, la passione si sente.